sopra, nascosto nell'ombra, sembra tu voglia portarmi stretto al collo come un insetto mollo in una goccia d'ambra. Chi sei tu che ti vedo a fianco e sbianco come Kimba, mi frulli i testicoli come maracas al ritmo di samba. Tu sei la macumba che gli arriva come la bamba, una carcassa viva rinvenuta, arriva la mignatta che salassa ogni linfa creativa, ogni tua visita priva di fiato perché mi viene a svegliare appena mi vede addormentato. Chi sei, maledetto chi sei, non ho riparo nel mio letto, chi sei, non mi hai detto chi sei, uno spirito, un folletto, chi sei, chi sei tu, chi sei. Io sono Caparezza, vengo da Florenza, ti schiaccio sul cuscino come un moscerino su di un parabrezza. Io sono Caparezza, tutt'altro che una carezza, non mi puoi uccidere perché io vivo in te, tu vivi in me. Io vivo in te, tu vivi in me. Io vivo in te, tu vivi in me. Io vivo in te, tu vivi in me. Non ce la faccio, sto diventando di ghiaccio. A questo qui non gli piaccio, meglio se faccio. Penso che se lo caccio mi gonfia come un polpaccio. Da giorni sono in terapia. Ciao dottore, mi servono cure per la schizofrenia. Vedo fantasmi con tutti i crismi in casa mia. Mi hanno detto che è tutto frutto di fantasia. Sì, hanno ragione, ma la questione è che stanotte la visione me l'ha data di santa ragione. Mi dia la soluzione, sono pronto a pagare, persino a cagare più di un milione. Dottore, lei non presta attenzione, non le interessa affatto la mia guarigione. Ma perché non mi parla, dottore? Sono qui da 2 ore e lei non fa che ridacchiare. Dottore, dottore! Io sono Caparezza.